Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'emergenza coronavirus è stata un banco di prova in Europa per testare l'unità dei 27 paesi dell'UE. Per quel che riguarda i trasporti, l'UETR, l'associazione che riunisce circa 200 imprese europee del settore, ha chiesto da subito politiche comuni e lo ha fatto, fra le altre cose, con una lettera inviata direttamente alla commissaria ai trasporti Adina Vălean, ribadendo la necessità di regole omogenee e di deroghe ai tempi di guida e di riposo. Deroghe che alcuni stati hanno stabilito autonomamente. La Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti, DG MOVE, ha risposto nei giorni scorsi ricordando le misure adottate finora. Dalle linee guida per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio e allo stesso tempo assicurare la movimentazione delle merci alle cosiddette Green Lanes, corsie preferenziali per mantenere la filiera e gestire le frontiere in questa delicata fase. Ma tutto questo è sufficiente? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E un mondo, quello dei trasporti, che sta vivendo un momento particolare, ovviamente con l'emergenza Covid-19, un mondo impegnato sicuramente a 360 gradi per fornire assistenza, ma che si trova spesso, soprattutto per quanto riguarda i trasporti internazionali, a confrontarsi con quelle che sono le normative, le disposizioni dei singoli paesi, tanto che muoversi in Europa in questa fase per quanto riguarda il trasporto delle merci è davvero molto difficile. Ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Marco Di Gioia, segretario generale di UETR, che è l'associazione europea che tutela appunto i diritti delle imprese di autotrasporto, soprattutto quelle artigiane. Buongiorno Di Gioia, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cominciamo proprio con questo problema di base, e cioè il tema dell'armonizzazione. Oggi praticamente ogni paese ha adottato una propria disciplina, una propria normativa, tanto che chi deve spostare le merci attraverso l'Europa, e per fortuna i prodotti italiani si muovono abbastanza frequentemente attraverso l'Europa, dicevo, chi si deve occupare di trasporto merci ha una difficoltà in più. Beh, questo purtroppo è sicuramente vero. Se noi guardiamo oggi alla cartina europea, vediamo un quadro estremamente frammentato per tutta una serie di aspetti di regolamentazione, divieti o meno di circolazione, misure restrittive, misure per gli autisti e per le aziende, procedure di ingresso, moduli, tempistiche, e chi più ne ha più ne metta. Quindi ad oggi quello che ci consta è una disunione europea in cui il trasportatore, che per antonomasia è mobile, oramai in tutto lo scenario europeo, si muove con notevole difficoltà. Notevole difficoltà a dispetto di alcuni interventi da parte della Commissione, interventi che, seppure ben accetti, sono però tutti delle raccomandazioni, delle linee guida, e ahimè noi sappiamo che con un'Europa a 27, quando si raccomanda, gli effetti non sono mai o non sono spesso di reale coordinamento, certo, e armonizzazione. Questo è il problema, questo è il vero problema. L'UETR ha prodotto con oltre 30 associazioni settoriali una dichiarazione congiunta con cui ha chiesto alla politica e all'opinione pubblica sostegno al settore dei trasporti, alle sue imprese e ai suoi lavoratori, lavoratori della catena logistica. Quali sono le vostre richieste? Beh, dunque, sicuramente la nostra richiesta numero uno è l'accesso ai tutti i paesi europei con le restrizioni che siano le minime necessarie per consentire a chi ad oggi, con tutto rispetto per gli altri settori, garantisce o può garantire, anzi garantisce a tutti i cittadini europei la possibilità di ottenere beni essenziali per la sopravvivenza quotidiana, anche a rischio degli stessi trasportatori, che quindi devono essere anche messi nelle condizioni di poter avere accesso ai rimedi o comunque alle tutele dal punto di vista sanitario. Quindi questa è la richiesta numero uno. La seconda richiesta, ad esempio, è quella di guardare alla disciplina delle CQC, che ahimè oggi è una disciplina ugualmente frammentata. Ecco, cosa significa questo praticamente? Dunque, praticamente vari paesi europei, inclusa l'Italia, consapevoli della difficoltà, se non impossibilità ad oggi, per un trasportatore di seguire il normale iter per il rinnovo della CQC, hanno prorogato la validità di essa. Tuttavia la validità di questa CQC è una validità a livello nazionale, per cui chi adesso deve effettuare trasporti internazionali rischia di non vedersi riconosciuta una validità della certificazione o qualifica professionale in un altro paese. Quindi laddove per l'ADR il problema viene superato a livello di trattato multilaterale, a livello CQC parliamo di una normativa europea. Quindi abbiamo chiesto alla Commissione di intervenire per fare in modo che una sorta di misura eccezionale, e noi sappiamo che in questo periodo eccezionale abbiamo bisogno di misure eccezionali, una misura eccezionale, dicevo, che possa consentire una validità europea almeno finché il Covid non verrà, auspico il prima possibile, risolto a livello europeo, mondiale, non sapremo ancora chi lo potrà risolvere anche con la preparazione di un rimedio. Ecco. Quindi fino a questo momento è necessario avere delle misure eccezionali che devono andare, lo ribadisco, al di là di linee guida o raccomandazioni. Apriamo una parentesi legata al pacchetto mobilità, perché recentemente il Consiglio europeo ha approvato questo famoso pacchetto mobilità che dovrebbe attuare una serie di riforme per il settore su tutto il territorio dell'Unione. Ecco, al di là dell'emergenza attuale, quali sono le previsioni di questo pacchetto e qual è soprattutto l'iter per la sua definitiva approvazione e per l'entrata in vigore? Ma dunque, il pacchetto mobilità ha visto una notevole novità un paio di settimane fa da parte del Consiglio dell'Unione Europea, che, lo ricordo, in soldoni rappresenta i governi, gli Stati membri, il quale Consiglio, dopo quasi 3 anni, ha trovato appunto un accordo definitivo per quanto riguarda il Consiglio, e quindi adesso la palla passa al Parlamento Europeo, una palla che speriamo sia finale, siamo arrivati al giro di boa, il Parlamento che dovrà pronunciarsi. Non sappiamo ancora esattamente quando, a causa naturalmente del coronavirus, potrebbe essere la Commissione Trasporti entro giugno e poi dopo la plenaria, ma tutto questo deve ancora essere confermato. Quindi l'iter è, diciamo, in un'ipotesi da confermare ufficialmente per luglio, o comunque per l'estate, la plenaria, che ricorda il Parlamento Europeo tutto, che poi dovrà validare questo testo, e dopodiché la normativa verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e i regolamenti entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, i regolamenti, invece la direttiva il giorno dopo la pubblicazione. Ecco, quali sono, rispetto anche a queste tempistiche, le novità che saranno introdotte nel nostro paese? Beh, dunque, in primo luogo abbiamo le normative sul distacco. Distacco fondamentalmente vuol dire che un trasportatore e un autista che si vede operare in Italia dovrà, a partire dal giorno 1, tranne alcuni casi particolari, venire retribuito e, per quanto riguarda l'azienda, seguire le contribuzioni, le normative sociali, di assicurazione e quant'altro del paese di destinazione. Quindi fondamentalmente, se io vengo da un paese A, non posso stare in Italia indefinitivamente per un tempo appunto lungo o corto, dipende dall'azienda, con la retribuzione per l'autista e con normative sociali del paese da cui provengo. Come sappiamo, questo era ed è un problema annoso, perché ahimè tutti sappiamo che in Europa le retribuzioni degli autisti, la contribuzione sociale e quant'altro varia molto, soprattutto tra est e ovest. Questa è la prima grandissima novità che prima non c'era nell'autotrasporto. La seconda è una limitazione per quanto riguarda il trasportare merci all'interno dell'Italia sempre in provenienza di un altro paese estero, quindi il tempo entro il quale io, azienda straniera, posso rimanere in Italia, trasportare merci da Milano a Roma, poi da Roma a Napoli, da Napoli a Palermo, è limitato, e in più dopo questo tempo limitato devo raffreddarmi, cioè devo non poter più trasportare merci, e in più dopo un certo periodo l'azienda straniera deve poter col proprio mezzo tornare nel suo paese di origine. Questo per evitare una serie di situazioni molto difficili dal punto di vista della concorrenza, che come tutti i nostri trasportatori sanno si erano create e si creano ad oggi in Italia. Certo, il dumping sociale che veniva creato anche da imprese dell'est o imprese che si erano trasferite all'est. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Marco Di Gioia, segretario generale di UETR, che è stato con noi oggi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli